Il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia vedemmo sfilare le alte rupi pallide della Val d'Adige, gli ultimi nomi di città italiane. Passammo il Brennero alle 12 del secondo giorno e tutti si alzarono in piedi, ma nessuno disse parola. Mi stava nel cuore il pensiero del ritorno e crudelmente mi rappresentavo quale avrebbe potuto essere la inumana gioia di quell'altro passaggio, a portiere aperte, che nessuno avrebbe desiderato fuggire, e i primi nomi italiani. E mi guardai intorno e pensai quanti, fra quella povera polvere umana, sarebbero stati toccati dal destino. Fra le 45 persone del mio vagone, 4 soltanto hanno rivisto le loro case, e fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per la sete e il freddo. A tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce, o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi. I soldati della scorta allontanavano chi tentava di avvicinarsi al convoglio. Due giovani madri, coi figli ancora al seno, gemevano notte e giorno implorando acqua. Meno tormentose erano per tutti la fame, la fatica e l'insonnia, rese meno penose dalla tensione dei nervi, ma le notti erano incubi senza fine. Pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità, e spesso non quelli che ti aspetteresti. Pochi sanno tacere e rispettare il silenzio altrui. Il nostro sonno inquieto era interrotto sovente da liti rumorose e futili, da imprecazioni, da calci e pugni vibrati alla cieca come difesa contro qualche contatto molesto e inevitabile. Allora qualcuno accendeva la lugubre fiammella di una candela e rivelava, prono sul pavimento, un brulichio fosco, una materia umana confusa e continua, torpida e dolorosa, sollevata qua e là da convulsioni improvvise subito spente dalla stanchezza. Dalla feritoia, nomi noti e ignoti di città austriache, Salisburgo, Vienna, poi ceche, infine polacche. Alla sera del quarto giorno il freddo si fece intenso. Il treno percorreva interminabili pinete nere, salendo in modo percettibile. La neve era alta. Doveva essere una linea secondaria. Le stazioni erano piccole e quasi deserte. Nessuno tentava più, durante le soste, di comunicare col mondo esterno. Ci sentivamo ormai dall'altra parte. Vi fu una lunga sosta in aperta campagna, poi la marcia riprese, con estrema lentezza, e il convoglio si arrestò definitivamente, a notte alta, in mezzo a una pianura buia e silenziosa. Si vedevano da entrambi i lati del binario file di lumi bianchi e rossi, a perdita d'occhio, ma nulla di quel rumorio confuso che denunzia di lontano i luoghi abitati. Alla luce misera dell'ultima candela, spento il ritmo delle rotaie, spento ogni suono umano, attendemmo che qualche cosa avvenisse. Accanto a me, serrata come me fra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono fra i vivi. Ci salutammo e fu breve. Ciascuno salutò nell'altro la vita. Non avevamo più paura. Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu aperta con fragore. Il buio echeggiò di ordini stranieri e di quei barbarici latrati dei tedeschi quando comandano, che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli. Ci apparve una vasta banchina illuminata da riflettori. Poco oltre, una fila di autocarri. Poi tutto tacque di nuovo. Qualcuno tradusse. Bisognava scendere coi bagagli e depositare questi lungo il treno. In un momento la banchina fu brulicante di ombre, ma avevamo paura di rompere quel silenzio. Tutti si affaccendavano intorno ai bagagli, si cercavano, si chiamavano l'un l'altro, ma timidamente, a mezza voce. Una decina di SS stavano in disparte, l'aria indifferente, piantati a gambe larghe. A un certo momento penetrarono fra di noi e con voce sommessa, con visi di pietra, presero a interrogarci rapidamente, uno per uno, in cattivo italiano. Non interrogavano tutti, solo qualcuno. Quanti anni, sano o malato, e in base alla risposta ci indicavano due diverse direzioni. Tutto era silenzioso, come in un acquario, e come in certe scene di sogni. Ci saremmo attesi qualcosa di più apocalittico. Sembravano semplici agenti d'ordine. Era sconcertante e disarmante. Qualcuno osò chiedere dei bagagli. Risposero «bagagli dopo». Qualche altro non voleva lasciare la moglie, dissero «dopo di nuovo insieme». Molte madri non volevano separarsi dai figli, dissero «bene, bene, stare con figlio», sempre con la pacata sicurezza di chi non fa che il suo ufficio di ogni giorno. Ma Renzo indugiò un istante di troppo a salutare Francesca, che era la sua fidanzata, e allora con un solo colpo in pieno viso lo stesero a terra. Era il loro ufficio di ogni giorno. In meno di 10 minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo. La notte li inghiottì, puramente e semplicemente. Oggi però sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il Reich. Sappiamo che nei campi rispettivamente di Buna-Monowitz e Birkenau non entrarono del nostro convoglio che 96 uomini e 29 donne, e che di tutti gli altri, in numero di più di 500, non uno era vivo 2 giorni più tardi. Sappiamo anche che non sempre questo pur tenue principio di discriminazione inabili e inabili fu seguito, e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni, senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio. Andavano in gas gli altri. Così morì Emilia, che aveva 3 anni, poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell'ingegnere Aldo Levi di Milano, che era una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente, alla quale, durante il viaggio nel vagone gremito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida, che il degenere macchinista tedesco aveva consentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte. Scomparvero così, in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo un po' di tempo come una massa oscura all'altra estremità della banchina, poi non vedemmo più nulla. Emersero invece nella luce dei fanali 2 drappelli di strani individui. Camminavano inquadrati per 3, con un curioso passo impacciato, il capo spenzolato in avanti e le braccia rigide. In capo avevano un buffo berrettino ed erano vestiti di una lunga palandrana a righe, che anche di notte e di lontano si indovinava sudicia e stracciata. Descrissero un ampio cerchio attorno a noi, in modo da non avvicinarci, e, in silenzio, si diedero ad armeggiare coi nostri bagagli e a salire e scendere dai vagoni vuoti. Noi ci guardavamo senza parola. Tutto era incomprensibile e folle, ma una cosa avevamo capito. Questa era la metamorfosi che ci attendeva. Domani anche noi saremmo diventati così. Senza sapere come, mi trovai caricato su di un autocarro con una 30ina di altri. L'autocarro partì nella notte a tutta velocità. Era coperto e non si poteva vedere fuori, ma dalle scosse si capiva che la strada aveva molte curve e cunette. Eravamo senza scorta. Buttarsi giù? Troppo tardi, troppo tardi. Andiamo tutti giù. D'altronde ci siamo presto accorti che non siamo senza scorta. È una strana scorta. È un soldato tedesco, irto d'armi. Non lo vediamo perché è buio fitto, ma ne sentiamo il contatto duro ogni volta che uno scossone del veicolo ci getta tutti in mucchio a destra o a sinistra. Accende una pila tascabile e invece di gridare «Guai a voi, anime brave!» ci domanda cortesemente ad uno, in tedesco e in lingua franca, se abbiamo danaro o orologi da cedergli, tanto dopo non ci servono più. Non è un comando, non è regolamento questo. Si vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro Caronte. La cosa suscita in noi collera e riso e uno strano sollievo. Sul fondo. Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato e si è vista una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Siamo scesi. Ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete abbiamo. Il debole fruscio dell'acqua nei radiatori ci rende feroci. Sono 4 giorni che non beviamo. Eppure c'è un rubinetto, sopra un cartello, che dice che è proibito bere perché l'acqua è inquinata. Sciocchezze. A me pare ovvio che il cartello è una beffa. Essi sanno che noi moriamo di sete. E ci mettono in una camera e c'è un rubinetto. E Wasser trinken verboten. Io bevo. E incito i compagni a farlo. Ma devo sputare, l'acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. Questo è l'inferno. Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e noi stanchi stare in piedi, e c'è un rubinetto che gocciola, e l'acqua non si può bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile, e non succede niente, e continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può più pensare. È come essere già morti. Qualcuno si siede per terra. Il tempo passa, goccia a goccia. Non siamo morti. La porta si è aperta ed è entrata una SS. Sta fumando. Ci guarda senza fretta. Chiede, «Wer kann Deutsch?» Si fa avanti uno fra noi che non ho mai visto. Si chiama Flash. Sarà lui il nostro interprete. La SS fa un lungo discorso pacato. L'interprete traduce. Bisogna mettersi in fila per 5, a intervalli di 2 metri fra uomo e uomo. Poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto dall'altra. Togliersi le scarpe, ma far molta attenzione di non farcele rubare. Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le scarpe? E i nostri documenti, il poco che abbiamo in tasca, gli orologi. Tutti guardiamo l'interprete, e l'interprete interrogò il tedesco. E il tedesco fumava, e lo guardò da parte a parte come se fosse stato trasparente, come se nessuno avesse parlato. Non avevo mai visto uomini anziani nudi. Il signor Bergman portava il cinto erniario e chiese all'interprete se doveva posarlo, e l'interprete esitò. Ma il tedesco comprese e parlò seriamente all'interprete indicando qualcuno. Abbiamo visto l'interprete trangugiare e poi ha detto «Il maresciallo dice di deporre il cinto e che le sarà dato quello del signor Cohen». Si vedevano le parole uscire amare dalla bocca di Flash. Quello era il modo di ridere del tedesco. Poi viene un altro tedesco e dice di mettere le scarpe in un certo angolo e noi le mettiamo, perché ormai è finito e ci sentiamo fuori del mondo e l'unica cosa è obbedire. Viene uno con la scopa e scopa via tutte le scarpe, via fuori dalla porta in un mucchio. È matto, le mescola tutte, 96 paia, poi saranno spaiate. La porta dà all'esterno, entra un vento gelido e noi siamo nudi e ci copriamo il ventre con le braccia. Il vento sbatte e richiude la porta. Il tedesco la riapre e sta a vedere con aria assorta come ci contorciamo per ripararci dal vento uno dietro l'altro. Poi se ne va e la richiude. Adesso è il secondo atto. Entrano con violenza quattro con rasoi, pennelli e tosatrici. Hanno pantaloni e giacche a righe, un numero cucito sul petto. Forse sono della specie di quegli altri di stasera, stasera o ieri sera. Ma questi sono robusti e floridi. Noi facciamo molte domande. Loro invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e tosati. Che facce goffe abbiamo senza capelli. I quattro parlano una lingua che non sembra di questo mondo. Certo non è tedesco, io un poco il tedesco lo capisco. Finalmente si apre un'altra porta. Eccoci tutti chiusi, nudi, tosati e in piedi, coi piedi nell'acqua. È una sala di docce. Siamo soli. A poco lo stupore si scioglie e parliamo, e tutti domandano e nessuno risponde. Se siamo nudi in una sala di docce, vuol dire che faremo la doccia. Se faremo la doccia è perché non ci ammazzano ancora. E allora perché ci fanno stare in piedi e non ci danno da bere e nessuno ci spiega niente e non abbiamo né scarpe né vestiti, ma siamo tutti nudi, coi piedi nell'acqua e fa freddo ed è 5 giorni che viaggiamo e non possiamo neppure sederci. E le nostre donne? L'ingegner Levi mi chiede se penso che anche le nostre donne siano così come noi in questo momento, e dove sono, e se le potremo rivedere. Io rispondo che sì, perché lui è sposato e ha una bambina. Certo, le rivedremo. Ma ormai la mia idea è che tutto questo è una grande macchina per ridere di noi e vilipenderci. E poi è chiaro che ci uccidono. Chi crede di vivere è pazzo. Vuol dire che ci è cascato. Io no. Io ho capito che presto sarà finita, forse in questa stessa camera, quando si saranno annoiati di vederci nudi, ballare da un piede all'altro e provare ogni tanto a sederci sul pavimento, ma ci sono 3 dita d'acqua fredda e non ci possiamo sedere. Andiamo in su e in giù senza costrutto e parliamo. Ciascuno parla con tutti gli altri, questo fa molto chiasso. Si apre la porta, entra un tedesco, è il maresciallo di prima. Parla breve. L'interprete traduce. Il maresciallo dice che dovete fare silenzio, perché questa non è una scuola rabbinica. Si vedono le parole non sue, le parole cattive, torcergli la bocca uscendo, come se sputasse un boccone disgustoso. Lo preghiamo di chiedergli che cosa aspettiamo, quanto tempo ancora staremo qui, delle nostre donne, tutto. Ma lui dice di no, che non vuol chiedere. Questo flash, che si adatta molto a malincuore a tradurre in italiano frasi tedesche piene di gelo, e rifiuta di volgere in tedesco le nostre domande perché sa che è inutile, è un ebreo tedesco, sulla cinquantina, che porta in viso la grossa cicatrice di una ferita, riportata combattendo contro gli italiani sul Piave. È un uomo chiuso e taciturno, per il quale provo un istintivo rispetto, perché sento che ha cominciato a soffrire prima di noi. Il tedesco se ne va, e noi adesso stiamo zitti, quantunque ci vergogniamo un poco di stare zitti. Era ancora notte, ci chiedevamo se mai sarebbe venuto il giorno. Di nuovo si aprì la porta, ed entrò uno vestito a righe. Era diverso dagli altri, più anziano, con gli occhiali, un viso più civile, ed era molto meno robusto. Ci parla e parla italiano. Oramai siamo stanchi di stupirci. Ci pare di assistere a qualche dramma pazzo, di quei drammi in cui vengono sulla scena le streghe, lo Spirito Santo e il demonio. Parla italiano malamente, con un forte accento straniero. Ha fatto un lungo discorso, è molto cortese, cerca di rispondere a tutte le nostre domande. Noi siamo a Monowitz, vicino ad Auschwitz, in Alta Slesia, una regione abitata promiscuamente da tedeschi e polacchi. Questo campo è un campo di lavoro. In tedesco si dice Arbeitslager. Tutti i prigionieri, sono circa 10.000, lavorano ad una fabbrica di gomma che si chiama La Buna. Perciò il campo stesso si chiama Buna.